soffre, malare, 4 kg di mille vine. Là, ciao Pomponio. Ciao Tori. Com'è la radio? Bella presentata, ma bomba. Da, va bene allora, dai. Io c'è un giorno qua, se sta di che baracchino qua. Ce l'ho fatta comunque, a voglia. Noi vabbè, da, già va bene questo microfono. Si è andata bene? Andrà bene. Mi sto facendo tutto fotovoltaico. Adesso devo andare da Bricom a guardare quei pannelli, che costano 300 euro l'uno. Quanto mi dà? Se ce ne vogliono 3 per 3 kg, va 3 contro 3. E puoi fare così. Che so, già li vendono su internet, questa è una cazzata. L'ho visto l'altro giorno, se mi sbaglio, su Facebook stavano vendendo l'offerta. Poi vabbè, dopo la Bricom, magari ti vengono anche di meno. C'è tutto il coso completo, c'è lo schema come installarlo, è una cazzata. Ma io ho provato su internet, tanto me. Allora, 3 volte l'ho scritto. Alla fine mi va di nuovo a scrivere e mi dica la zona, come ti ho scritto tutto, dove ha, tutto quanto, nome, cognome, indirizzo, nome, telefono, tutto quanto, e mi va a scrivere solo di cazzate. Ho scritto, ascolti, non mi mandi più niente, vado al micro e vado a coppia, arrivederci, e l'ho bloccata, va a fa culo. Hai fatto bene, cioè, è un casino, ma andatela, hai fatto bene. La prima la Bricco come ti carichi 3-4 pannelli, ti carichi e prendi quello che c'è da prendere, già lo sai fare il lavoro, non è che doveva dire un installatore di cosa, di pannelli voltaici, quindi mi piace la batteria e poi quella geggiola in modo da poter installare. Poi allora i pannelli vanno affittati a subito, se non mi ricordo male. Sì, vabbè, da giorno inverte poi, è una fesseria, dai. Ho fatto 25 anni, lavoro per l'elettricità, quindi. È bella volta che sui pannelli fotovoltaici delle scuole, quindi non c'è problema. E vabbè, cosa mi fai scrivere, mi dica ancora questo, se no entro venerdì almeno può partire l'ordine, ma vai, ci viene a mezzo. 3 ore, gatto, sempre scrivendo anche Manzano, mi ha rotto le scatole. Guardo in me e trovo un altro messaggio, sempre la solita cosa, ma non mi mandi niente, si abbia a luce. Hai fatto bene, fatto. Anzi, mi pare su dopo queste cose, sapete, perché ho visto quelli che sono di fronte all'hotel qua. Dove c'è l'hotel sono su dove si pensate verso Alghero, quindi figurati, è una cazzata installare, basta che c'è il sole, il punto più ottimale dove che fa il sole dalla mattina presto fino alla sera tardi si è a posto. Andrà bene, e vabbè, così elimino il contatore, adesso mi ci sono 34 euro la bolletta, oggi se mi avalo sono un bagnetto a voi, basta consumare corrente, insomma, non sta arrivando il callo, c'è un cavolo di cosa, condizionatore piccolino, 2 kW sono, purtroppo c'era freddo Antonio, e quindi la mattina presa accendevo, poi la sera, ore, e hanno consumato la corrente, siccome la bolletta è aumentata un po', e allora niente, spendo una volta e boom. Non so della bolletta com'è, non ti preoccupare, me ne sono arrivati 500 euro a me, di luce da pagare, tasca da bagno e soffetta questo inverno, quindi adesso ho chiesto se potevo installare i pannelli solari e mi ha detto di no, il condominio, adesso vediamo com'è. Un attimino che faccio mano per conto dei gli abusivi sui 433 adesso sono trasferiti dal PMR e dal PD questi canale 1 433 085 siete nel casino infatti per carità ui. Vabbè senza non cadere la batteria qua ma salto la radio no adesso va bene. Sembra che stanno scaricando la batteria, ragazzi. Ui. Vabbè, non fa niente, dai. Che vuol dire? Ma non c'è più nessuna frequenza. L'altra sera acceso, ho fatto la spazzolata, non c'è nessuno, ho spento tutto. È durato baracchino acceso 3 secondi. Figurati. Ui. No, ora ce l'hai gente, penso, non lo so. Vabbè, ti lascio che vado a fare la spesa alla Ruspin, che mi manca della roba. E poi già ci sentiamo dopo, là, se sei a casa. Ci sentiamo fra quattro ore, 20 minuti, tempo di fare la spesa. E anche di più, perché devo andare da bricola prima, capito? Che voglio vedere questi panditi. Vabbè, là, se mai più tardi ci sentiamo. Ok, ciao ciao, saluto la 50, c'è la 25, 50, 65, il gioco è... 30 anni ci sono, quindi 50, la gente. Ah, 65 più nasco, allora ci sentiamo dopo, ciao. Ok, ciao, Tore, ciao. Da me, ce l'ho io qua attaccato al 48. E K, questo è K. E questo è il colto però, K. Vabbè, adesso ce l'ho per il canale 45. Aspetta che abbasso un po'. Ma dammi la registrazione di questo momento. Attenzione Giulio, Giulio, Giulio. Attenzione Giulio, ci sei all'ascolto. Prova 1, 2, 3, prova radio. 1, 2, 3, 1, 2, 3, K. È arrivato adesso. Ehi, già spinge. Già spinge K. E posso anche... Allora, e posso anche aumentare ancora, guarda, oh, la la la la la la la la. E beh, poi l'antenna messa la qui, salta l'antenna. Non metto tra dove andare, non ho capito. Sì. Chi è raga, ti serve una base a galletto, dai. Sì. Te l'ho mandata la foto, ma te l'ho mandata la foto. Sì, è vero. Beh, quella lì attacchi lo stendino, e allora? Ma se basta solo di radio, vabbè, il segnale è solo 9.5 per essere lì. Prova, sei passato da 10 a 9.15. Sì. Non sai che cosa è strana. Santo arrangiati, se non si può di più. Che tu dove c'era il giorno? La Meloni ringrazia. Ma visita, non te ne chiamata qui. Poco avevi già. Però. Perché già subito diranno di. Io ho aspettato, non mi ricordo quando, prima che mi arrivasse la cosa, vabbè, l'avevo visto già dal sito dell'Inps io, quanto era, capito? Ma è un bel strano che non si dà già nidato, chi sono miserabili, te credo, lo so, un casino, se ci rimane questa gente, fino arriva e meno soldi ci saranno per gli italiani, ma foto come ti si deve. sì, ma sto andando e non ho guardato ancora. Dimmi, no, più basso. Ma di radio non di segnale, il segnale è sempre lo stesso. Boh. Io va. Uè, ma uè. E allora? Chi te mi conta già? Prova. Santiago 7 radio qua. Prima mi sa che ti ascoltavo più forte, ma non ricordo bene. Mettila sul tetto così risolvi il problema. Davvero? E fuori nel balcone non ne hai posto. Perché cosa faccio che ti vuoi? È strano però. E beh, andato sarà al mercatino. Perché ripreso hai. Dove? Ah, dai, oh. Ma stai facendo portierato? Ah, ecco. Ma sei con la stessa ditta oppure sei entrato con un altro? E vabbè, ma non è meglio di un pugno occhio già, dai. Qui nel 2003 non so da buttare, no? Ah, ecco. Sì, se... Fammi sapere che voglio sistemare qualcuno, se stanno cercando. E come si chiama questa ditta? Eia. Così lo dico anche Antonio, poverino, che senza lavoro. Ah, basta allora, dai. Allora basta. Beh, quello sì. Vabbè, dai. È fatto bene, te l'hai presa la macchina, ma noi, quindi serve sempre. Che non sono marino, quindi riuscirà sempre. E chi ha vinto? Rogarirade. Ma quello di senti? E lì se succede un ulisse cosa dovete fare? Non dovete separarli voi. In due, e come fai? Ah, ecco. A che si sa fare di due squadre? È un po' difficile in due a separare. Vabbè. Vabbè, non è un servizio semplice, è quello lì. E notturni pure fai, Manuel. Il notturno è che è brutto, il notturno è brutto, però già passa, non è che sia un lavoro molto pesante, diciamo che è pesante mentalmente, perché devi trovare qualcosa da fare lì, vabbè che adesso c'è internet, di buone su internet. Vale la villa dei Salis, era antisequestro, e ci avevano praticamente quando si apriva il cancello era un segnale che avevano bisogno di aiuto per dire, io andavo a fare compagnia, capito, tanto tempo fa, era un CV questo qua, praticamente poi faceva il giro che aveva un cane pastore tedesco che aveva trovato, è andato a denunciarlo tutto quanto, nessuno l'ha mai reclamato, allora se l'ha tenuto lui e faceva il giro con questo pastore tedesco e poi se ne entrava in macchina e stava tutta la notte infreddolito dentro la macchina, infatti fumava un beh eccetera e ciucciava. E quando c'è il freddo c'è umidità, poi lo vidi lo mattesci. Io praticamente ho un amico che è lì a Oderzo, vicino a Treviso, si è sposato lì e tutto, ed è nella zona del latte dolce, là. E praticamente è partito così scherzando, poi ci ha arrestato lì. Faceva 300 km, adesso Treviso a mettere i bigliettini sotto le serrande e poi è entrato nel portavalori con la Vigilpol, no Mondial Pol, non Vigilpol, Mondial Pol, e praticamente lo pagano di più, qua e sta bene, finisce alle 2 di lavorare e ha finito, però rischia, capito, è rischioso come lavoro. E specie se lo fai tipo Milano, Roma, città grandi, perché lì non guardano nulla, non prendono la ruspa, danno un colpo di ruspa e ti dicono, mi so cosa hanno fatto, hanno sbarrato il furgone con la ruspa per rubare su. E lì ci sarà anche qualche guardia giurata che fa la spia, dai, diciamo, che sa l'orario, tutto quanto, glielo dice. Qualche talpa c'è sempre. Sì, e poi arrivano proprio nel punto esatto, nel momento giusto li sbarrano la strada, capito? Quindi devono sapere per filo e per segno il momento che si trovano lì, in quel punto. Allora, io ho un amico che gli hanno fatto fare il blindato, e hanno fatto la sorta al blindato. Dal giorno ha chiesto di andare in ufficio perché, cioè, praticamente è venuto tipo l'esaurimento, si tremolava tutto canto, cioè non riusciva più, è dovuto stare malato un po' di tempo, e poi ha chiesto di andare in ufficio a lavorare perché non lo voleva più fare. Non è un lavoro che ho avuto diversi amici che lo facevano, andavo a trovarli, quindi so come ne avevo uno che lavorava dentro un banco in Sardegna e io entravo dentro, anche se non potevo farlo mi facevo entrare, però diciamo che non è un buon servizio, ci vuole molta, io non ci riuscirei perché stare chiuso in un posto a me mi dà proprio fastidio, non riesco a resistere, scoppio. Ma lui è un fiorellino, certo. Un casino, è entrato Natalino, avanti Natalino. Buonasera, hola, aspetta, volevo sapere se sto uscendo di radio, aspetta però, ecco qua, hola. Sì, stai uscendo Natalino, tranquillo, ciao Natalino. E niente, vabbè, ci sono anche i posti buoni, tipo in ospedale, fisso, io per dire, conosco una persona che lo fa fisso all'Inps. Un collega di Edoardo, di questo amico mio, mi ha detto che l'avevano fatto in questa fabbrica dove producevano bracciali d'oro, catenine d'oro, tutte queste cose qua, no? E praticamente si sono nascosti sopra al tetto, lui era da solo, bidava freddo, neve, di tutto e di più. Ha detto che li sono saltati addosso, l'hanno disarmato, l'hanno incuito laggiù, se l'hanno lasciato in terra e hanno rubato un po' di roba. Pistola, tutto gatto. Il 4 l'hanno mobilizzato, l'hanno immobilizzato, l'hanno rubato la pistola e poi sono andati a rubarsi la roba. Sono entrati dentro, hanno rubato quello che dovevano rubare e poi se ne sono andati. E questo collega ha detto che non ne vuole più fare questo capannone perché è molto rischioso. E dice che lì ci sono gli albanesi che fanno queste cose. Oh, la radio amplificata è già. Sì, diciamo che è bella forte Natali. Perché? Cosa stai usando? No, stavo usando questo apparecchio qua per vedere come stavo scendendo, perché mi ho fatto la manutenzione al microfono che era un po' così, era un po' difettoso, non faceva contatto. Prova a alzare per appena. Vabbè, vediamo un po', guarda. Guarda così com'è. E così è amplificata, però nell'altra maniera è chiara la radio, non è molto amplificata, però è chiara, capito? Me la forte. Già lo so che è chiara. Allora, aspetta un attimo, guarda il segnale. Aspetta che devo fare una cosa prima. Sì, sul DB del 9.30. Aspetta, E così? No, guarda un po'. E è sempre il massimo da segnare, c'è un passaggio che era l'altro, da lì. Se fosse stato più basso, te l'avrei detto, ma è 9.30 su di me. Ho capito, là. Vabbè, aspetta un attimo che abbasso. Ecco qua. Oh là, sì, già sta uscendo. Ecco, adesso la metto a metà. Oh là. E questo che microfono è il standard? No, la V508. Ah, ti ha trovato quella roba là? No, negativo. Perché per quell'altra c'ho il 60, ma ancora non mi è tornato. C'era l'affare di dentro del manopolone, che quando tornavo indietro gratta, allora ho preferito sostituirlo, almeno è nuovo. Dall'Ungheria mi è arrivato. Addirittura. Ragazzo, già avuto. E ci avrà messo una settimana, da. E dai, non mi cattato, ciò va bene. No, io, la V, cos'è la V? L'encoder è quell'affare che c'è dentro, quello che comanda il manopolone, mi. Ho capito, però il microfono cos'è, la V? La V508 è. È quello che c'ha l'equalizzato? No, negativo, quello normale. Ah, ho capito, io ho avuto quello con l'equalizzatore, poi l'ho venduto a Stefano. Ho capito. Mia, bisogna premere bene qua, eppure gli ho passato l'isossidante. Ma l'aria, tu state nell'aria prima di passare l'isossidante, se no si impasta, mi Natale. No, sono di quelli piccoli gli interruttori, mi. Ma la polvere è tanto in basso. Ma non è, affettato l'aria di salsiccia. Perché affettando salsiccetta? Sicuramente sta merendando, ti aspettate un attimino che vengo subito. Ma che vuoi che ti dica? Manuele Fiorellino! Ah, sono bruciante da minore! A me mi sembra che sia più basso di prima, Santiago 7 mi arriva, adesso non me ne ricordo prima quanto mi arrivava, ma penso più forte. Non lo so, io non ho neanche guardato quanto mi arriva, capito? Eppure uno si muove, dicevi, hola, oh sì, ma già sto uscendo, hola, hola. Accidenti, non risponde, è impegnato, cavolo, è impegnato. Allora senti la propagazione già, la senti. Un innesco c'hai. Bubu. Natali, perché stavo cambiando apparecchio, ci ho volato acceso, capito? Ne scatto per quello. E infatti, quando c'è l'altro ti innesca. Questo come va? Già anda bene. Anda bene Meda. E ogni tanto bisogna farli girare, perché se no si imbarrano. Ogni tanto bisogna, un giorno uno, un giorno l'altro, li faccio girare tutti, perché se no poi si bloccano, là. Il garage già è sempre al zillo. Sempre all'erta, da. Ehi, andiamo un po', Manuele, ci sei? Nada de nada, Chissà tutto chissù che affittendi, chissù. Intanto non la dico sedi, ma l'imbarazzo della scelta. Vado a aprire un attimo. CQ10, CQ10, cambio. E 13, Q10. Cazzo, non basta tutta la propagazione che ve. E tu ma la sera a vedere, non vedi, tu volte che gente nisba. Ma adesso cosa puoi fare? Di fermarlo. Io mi volevo comprare un altro apparato, ma mi sa che ho deciso di non farlo perché tanto gente non sta entrando, cosa spendi soldi a fare? E anche io me ne volevo comprare uno per andare in banda laterale in estate, perché questo non lo voglio aprire che è omologato, ma poi ho deciso, lasciamo verde. Ma io che vado in banda laterale non divirsi, uno, due, tre. Che vanno in banda laterale è 4 e anche il mio va in banda laterale, solo che c'ha 40 canali solo, è omologato questo che c'ho io, non puoi aumentare il watt, non puoi va a nulla, anche il mio è omologato per il coso 3009 è omologato e gli altri sono locali. Vabbè, questo io ne ho uno solo, c'ho solo il 3009, però non lo voglio abbrida. Ma io so che consigli a le vado a laterale. Ma non lo volevo usare per farmi di ex, capito? Vuol dire che me lo userò come giocattolo, da. Sì, quando ce l'hai lo usi per tutto, laterale, cosa ti la futti? Se più usando lo stai, no? Lo usi per tutto quanto. Ti fai conto se ti fai tutto quello che devi fare, però lo usi anche il 27. Ehi, non lo volevo usare qua. Capito? Che vuoi che ti dica? Ma è lungo, Baro, è la cazzo di là, si cazzo di là. Cosa già? Ho detto quanto ce l'ha in lavorazione. Ehi, un po' di tempo ce l'ha. Perché l'ha dovuto smontare tutto per poter togliere quel pezzo che ho comprato. Ah ecco, c'è la che da sostituire qualcosa. E l'encoder gli ho fatto sostituire, perché dice che macinava, sembrava che c'era qualcosa dentro che toccava. E allora gliel'ho fatto mettere nuovo. Ma meno male si trovano i pizzi. Anche quello, vedi. Quando c'è la marca i pizzi li trovi. E infatti almeno è tutto nuovo. E vabbè là, ci vorrà anche tempo per sistemarlo come si deve. Solo per smontarlo ci ha messo 9 ore. Vi è stretto contatto con i familiari. Ah vero, avanti su contoli. E cosa vuoi fare? Cosa dicono alla luce di questa nuova... Purtroppo. E vi è detto definitiva, per esempio. Almeno lo controlla tutto, capito là. Vabbè, gli fa la revisione generale, dai. Ma ne aveva già fatto di quegli apparati quella persona? Sì, altro che quello ha fatto. Quello lì è un giocattolo a confronto a quelli che ha fatto. È bravissimo, anche nelle valvole lui è bravo, è diplomato lui. Poi c'è la strumentazione, ci vuole, se no non fai nulla, non gli sa parire. Vabbè. Io me lo ricordo che era uno dei pochi che li aggiustavano. C'era lui, anche una riserva che aggiustava apparati. E poi pochi erano proprio, si contava sulla punta delle dita. E infatti, non sono tutti che fanno quegli apparati lì. Avanti, ascolti a Manuele. Sì che ti ascolto Manuele, perché? Dove si mette? Prima una e poi l'altra Manuele. Allora, Santiago, sì, Santiago sì, qua. E non me lo ricordo, no? Come la vedi? Non è sempre a Baidurusignare io, perché ce l'ho in una posizione strana l'apparato, non ce l'ho davanti. Qua sei io, poi con questo apparato, che apparato. Se ti interessa a me, sto dando una Turbo 2001 con magnetica e tutto. E lì c'è un buon pavvino, come la matto, papà. Oh signor, oh signor, sembrato più basso proprio a farlo. Vediamo adesso quando cambia lo stile, se aumenta capisce. Allora sai quanto ce l'ho lontano il microfono? Tutta la lunghezza del braccio. Già va bene, ci sono che si sente il televisore. Pure. Ma poco, Natali, non è come le altre volte, dai, sente poco poco. Perché questo è un altro, il microfono, dai. La realtà è non è la fine del mondo se si prende. L'MB più 4 è più da battaglia. È lo spirito col quale scappa. Avanti, prova, qua c'è il segnale. No, mi sembra che è aumentato di un punto e ti sento più forte di radio. È meglio questa secondo me. Sì, la radio è più forte, Emanuele, confermo anch'io. Il segnale bene o male lo stesso, dai. Sarà di mezzo punto, boh, che è aumentato, ma la radio è più forte. Questa che antenna è? E l'altra che antenna era? Buonasera. Manuel, e come? Cos'è tipo frusta nera, tipo cosa di musulì? Oh, ho capito. Cos'è? Caricata tutta l'antenna? Tipo frusta nera, là. Ho capito. No, ma va meglio l'altra, va meglio questa qua. Questa qua è molto migliore, di radio è più forte. La PRC1000. Questa non è la PRC1000 questa qua. Ho capito. Avanti, la qualità. Ma chi c'ha aumentato i segnali e la radio buru? No, la radio segnale è lo stesso, ma la radio è aumentata, è vero. Ma perché non si mette un'antenna sul tetto? Che? Perché pure la bombardano. No, giù una che pare un roccio, era voi Emanuele. Piccolina è. Una bazooka è me. Oh, ci non servirà nulla. Ci la brunata la capitulia a vederla se funziona. Oh, sono antenne che non servirà nulla, boh. Sono pane di manganelli, antenne. Quelle vanno bene in barca perché c'hanno lo vanno bisogno di specchio riflettente. Che lo usa nel mare come specchio riflettente, e quelle vanno bene sulla barca. C'è buone la Turbo 2001 lì, dove ti commettisci? Manuel, ho detto, perché non provi la Turbo 2001? Lì esci forte con quella lì, che è pari la manto, va bene, la Turbo 2001 esce forte. Tu quello che devi, perché lì ho l'ambientaccio, già va ragione. Attenzione collega, qui è la città di Sassari, nord Sardegna, l'operatore Nuturuo, vedi un po' se l'ascolti. Ah va, ragazzo buonista, amico che secco, wow wow wow. Attento collega, se ascolti l'isola sarda, cambia. Cavagava, l'operatore Nuturuo che ti super cordializza, una settimana di paletta, avanti collega, chi sei? Tu hai sentito? Attali. Oi. Secondo la mia risposta. Se tu li chiami, cazzo, poi entrano tutti a rompere i cattoli e ti disturbano il questo locale. Ah, e tanto stavano disturbando lo stesso perché sono a Manuele e me lo coprivano. E che vuoi che ti dica? A te non disturbavano a Manuele, lo copriva quando parlava. No, no, a me io lo sentivo bene a Manuele. Ah no, e oggi cosa devi fare la notte? Riposo? Ah, manco male, dai. Quanti riposi ti danno? Mamma mia. Oh yeah. È un po' stressante, va. Ma anche polizia, carabinieri, cioè, così lo battesse. Fanno tutti questo tipo di lavoro. Escono di notte, fanno le notti. Penso ci usa la cucciola quando l'hanno messo in pattuglia, oh yeah. Quello già è vero. Sì, loro sono in due, i carabinieri. Però, vabbè. E con la macchina in giro non ti piace a mettere i biglietti? Ma quello lì mi sa che è meno rischioso, là. Lo di tu, cazzo meno rischioso. In chi sei messo alla carriera e sei a Asura? La polizia fa dei settori, tu ne fai 12, si sta andando adesso è così, quando lo faceva mio suocero, se mancava qualcuno si faceva due turni consecutivi, e mo due. prima 7 ore, fanno. Cazzo. No, fai 12 ore di vira. Chi c'è sempre i 12 ore di vira? E almeno le pagassero, diciamo, bene, 12 ore. Se ti dessero almeno 9 euro all'ora sarebbe una cuccagna, dai. E noi al comune lo stesso 7 euro e qualcosa piglievamo. No, non pigli di più, no. Stai scherzando, magari. No, è che mio cugino lavora all'Inps, guardia giurata lì, mi, all'Inps, al coso dei tram, lo mettono. Però fanno un casino di ore per poter avere uno stipendio, insomma, un po' tranquillo, se no gli danno 5 euro a Besumeu a ora. Ma all'Inps c'è l'executive, perché c'è Sergio, l'amico mio, ed è sempre di fisso. Anche Paoletto mio nipote è lì. Paoletto mio nipote non è lì. Ogni tanto lo mettono all'ATP, oppure è sempre fisso all'Inps. Però sono ben duri che fanno. È nata lì. A male estreme serve il rimedio, uno preferisce quello che deve stare senza fare nulla. Ma ne ci vusumi, cosa ti credi che sono tutte rose e fiori? A me quando faccio 12 ore, cazzo, mi viene la disinspirazione, perlomeno. Maria non finiva mai, c'è un cazzo di travaglio. Pucci, cazzo. Sì, già lo so, l'atta lì che è così, già lo so. Però una cosa è fare quello che facevi tu, quello che facevo io, che c'era anche il lavoro manuale, una cosa è fare solo lavoro di testa, perché lì si tratta solo di stare attenti e non è che fisicamente sforzi. Lavoro di testa è... ti stressa di più, capito? E ci fuso a fare quel lavoro lì, mi già lo sa Emanuele, mi fatti lui da Edo via, già l'ha provato, cosa vuol dire? Emanuele lo sta facendo tuttora. Negli uffici stanno bene, quando stai a fare tutto uscire lì così, negli uffici, se sei incozzato ti mettono lì e non ti muovono più, perché qui vedono sempre lo stesso, che sa tutti i movimenti, tutte le cose, vedono sempre lo stesso. Così già va bene, dai. Non è... io ne ho visto uno per dire che c'è all'Inps, che ti chiede cosa devi fare, ti dà il numero, tutto... ti stacca il numero e te lo dà, che cosa che potessi fare anche tu. Ti dà il numero, ti dice si sieda che la chiamano loro. Ecco, quello lì che fa, basta, punto. E non è che sia lì stanno bene, perché poi all'Inps chiudono e quindi io già non penso che ci sia anche la notte che fanno. E allora la notte fanno, 12 ore fanno, non ha compreso, si fermano i buddi. Bene bene, scappa. Io ho un amico che va pronto soccorso, lo mandano in tutti gli ospedali, sempre da un ospedale all'altro, a Tiesi, in tutti gli ospedali, c'ha solo gli ospedali, lui fa solo quello. E almeno vedi gente, capito, parli, ti passano dentro. E in certi posti che sei da solo, tipo un capannone di notte con cafamiti, gruburu, scappa. Bisogna avere un po' di fegato e fare quel lavoro, però uno dice se è meglio quello che niente, dai. Tu cosa avresti preferito, fare le turbine o fare quello? E allora, le turbine non so se si deve fare presto, fare un lavoro diciamo dignitoso, però è un lavoro che ti stressa, capito? Devi stare sempre parenti, azzendi, rubare, tutto cazzo. E di là non te ne regala nessuno, eh. Il mio non era meno stressante, il mio di lavoro, guarda come sono diventato, se mi sono dovuto operare tutte e due le gambe, tutto a dolori, sempre qua, sempre ho dolori in tutto il corpo, tranne vabbè dove sono stato operato perché mi sono passati, però in tutto il corpo c'ho dolori, c'ho reumatismi, capito? No, a me lì che sono passati del tutto, dopo tre mesi, ci ho messo tre mesi a passare, non ne sono passati del tutto, grazie a Dio. Solo che ho fatto una caduta, capito? Ho fatto una caduta e ho sbattuto un marmo, ho cazzo la schiena dietro e ho toccato qualche cosa. Mi andò lì, ha cominciato a risvegliarmi tutti i dolori che c'avevo. In passato mi venivano per dire un giorno al ginocchio, un giorno alla gamba, un giorno al braccio. Adesso tutti i gatti in pari, lo mangiano, sembra un uscito, poi come mi metto in moto mi passano, capito? E a Massassista si affettesse. Ehi, ma a te già ti piazzi. Oh, via, vabbè, riprendi la salita. Manuè, aspetta, aspetta. Manuè, non sei salumiere, ma sei un gustaio. Vabbè, certo, vesci pure. Se devi andare a girare devi idrattare, no? Non devi lasciare bevi, no? Ma tu la battaglia, l'arburesa del civico non ce l'hai. E mo che panzutto, devi si vedi, longhi. Io l'ho pagata a 180 la mia. Ma la mia è bella, mi c'ha il manico d'osso, è molto bella, dai. Io. Avanti, tapparisco. Io c'avevo un collega al comune che le faceva lui a mano le risolze, una fattuzzetta, i gatta duri dubibidi, erano opere d'arte. E anche il mio collega di Sorso le faceva. Erano belle, sì, mi piacevano, però questa qua che c'ho io è fenomenale, bellissima, proprio fatta bene, di lusso. C'ha la custodia, c'ha tutto. Anche la mia, quella che ho io, non l'hai vista. Cosa? La vendo, ma non posso venderla, diciamo, molto meno di quello che l'ho pagata, nuova nuova. Cosa? No, io non pretendo dal prezzo che l'ho presa, però almeno 120 le voglio. È nuova, nuova, nuova, nuova la bicicletta, niente, proprio perfetta. Ma infatti, se ti interessa ci mettiamo d'accordo. Le patatesi belle e buone le fa uno a patata, pocarizzo, non di quattro. E allora, Fogarizzo le fa, quelle a viru, patatesi a viru, non giocattoli. A me me la voleva fare per 100 euro quello del collega, e da lui non l'ha giubilato, ma era ne vede a viru, che si fazia, dice collega mio, di dove vedi. Una volta già ne ha fatto una, cazzo, che chiusa per era 50 centimetri. Tu la dovevi vedere chiusa a me. Quella era per esposizione, tutta con le cose in argento, ma tu la dovevi vedere. L'ha portata in officina a farcela vedere, era bestiale quella lì. Manuè, mandami un ciao, che ho preso il tuo numero. Manuè, ti domandate. Tattali, tattalo. Aspetta che gli mando la mia cosa a Manuele. Speriamo. E tutti stanno tutti bene. Comunque c'è un cane, c'è per il nipote, ma il figlio di Giuseppe lo riconosco. Però cane Thank you. la persona per il concetto. E a chi ha bisogno di un'esito da carriera, chi lo padrono di Rugani che ha musicato a Kurt, io glielo ho detto a Concetta, però fa venire un ritirato, se no non mi chiama, se no glielo sparo, se no glielo sparo a Giudizio. A parte che va già andato da un amico mio che guarda i zuffi, l'hai per voto controllato, se no va un microchip per il vostro biglietto. Un microchip non... Quello che ha musicato al paese l'hanno legato a un palo, sono andati a comprare un negozio, è passato questo signore col cane, ha strappato, era legato con una cintura di pantalone, immaginati, ha strappato la cintura, è andato per prendere il cane, lui l'ha visto andando furioso, l'ha preso il suo cane e se l'ha messo sul collo per non musicarlo, l'ha spinto per farlo cadere, capito? L'ha spinto per farlo cadere, lui ha appoggiato il cane sul cassonetto, pensando che non ce la facesse, è salito sul cassonetto e gli ha preso il cane, l'ha stretto fino a quando gli ha fatto uscire l'occhio fuori dell'orbita, quando ha visto così ha cominciato a cuire la valle di Biego, perché dice se no lo perdevo, e poi è uscito il padrone, quando gli ha dato il comando ha smesso, e me l'ha denunciato però. Io lo credo, quando la musica da Romeo mi già mi è colcato. Sembra viola. Già mi è costato quando ha musicato a cui. Adesso io sono colpito. Ma io se lo torno a musicare sparo a lui e al cane. Però qua. E atta lì. Mi dovrebbe prendere quelle pistole, quelle che usa la polizia laser, che dice tu e dalla scossa. Il taser. Non si può usare, non te ne prendono neanche qua di quello che usa la polizia. Grazie allora, ma cioè questi cani non li sanno gestire, capito? Non li sanno gestire, quello lì è un... ma lasciamo perdere, va. Quello che ha musicato a taser gli ha fatto... uno che gli ha fatto male, ho dovuto pagare il veterinario e non mi ha tornato i soldi, anche se mi ha detto che me lo pagava, se non lo denunciavo che mi tornava i soldi, invece non me ne ha tornato e ci ho preso i soldi e poi mi ha dispiaciuto per il cane soprattutto. Non lo so io. No, beh, che andò la musicata, l'ha troncato l'anca in tre luoghi a Rugani mio, isso. Se io lo vedo chi è, Enrico, mettili la museruola, non lo portare più senza museruola, se no te lo sto sparando. Sparo a te e al cane, Enrico. Ve lo dico proprio in faccia. Adesso Gabina mi ha detto che sei un delinquente. Enrico, attenzione, c'è una carriera quando vedo Rugani mio. A chi si mi ruba la musica, i para a te e a Rugani. Sì, ma questa gente mi deve mettercela contro, andata lì, lascia perdere. Cerca di invitare e basta, tutto lì. Io il cane lo sto portando da un'altra parte, sono tranquillo, c'è un parco, lo faccio girare lì nel parco, tutto quanto, c'è il parco sia per i cani che per i bambini, vicino a casa, e non lo porto più lì, tanto sono sempre a bisticciare, è sempre a bisticciare. L'altra volta stavo salendo, questo qui mi fa, no, non salire col cane che il mio è slegato, e usa l'entra, cioè tu devi legare il cane, io il terreno è tuo, ma stai dicendo a me, è tu prima all'inizio. Sì, sì, a te sto dicendo, non salire che ci sono col cane slegato, gli ho detto, ma tu chi sei per dirmi di non salire? Ma ce la fai, se ne è andato, E ti sarà convinto. Cosa mangi? Con la ricorda? Sì. E poi? Boh. Non c'è altro. E allora va che cosa? Capito, Natale, prima ha aggredito Elena, è venuta qua e me l'ha detto. E poi chi è questo qua? Dimmelo. Me l'ha descritto, guarda c'è un bel cane di quei cani bulldog francesi, mica. A parte le ho mia con la museruola e con il guinzaglio, il tuo che non è in regola, gli ho detto. Legalo e via. E ma deve fare bisogno, neanche il mio li deve fare, però non li fa da slegato, li fa col guinzaglio, lo seguo, dove va? Infatti, anche il mio li fa, col guinzaglio li fa i bisogni se li deve fare. Cos'è questa storia di... Così a Platamona erano i musichetti di Romattesi, Lugani di mitraglia. Adesso lo so da faccio, mi porto la pistola nel borsello. Come mi rompono il cazzo, glielo sparo. E lui si impara. Poi non me l'ha fatto un cazzo, mi denunci. E perdi anche il portafoglio. Ma cosa mi ha appunto? Intanto per il portafoglio. E se non mi ha regolato la soggia? Se mi ha regolato la soggia, ho detto che non morirò mai a testi. Vieni su cazzeggio, Lugani, e su cazzeggio pure a Edu. Vabbè, Natali. Comunque il cane per gestire bisogna tenere a guinzaglio e se sono pericolosi bisogna mettere anche la museruola, perché se questi pitbull sanno che sono così e li metti la museruola non creano danni, mentre invece così li creano anche problemi a loro, perché adesso l'hanno denunciato e li devono chiamare in questura, capito? Tutti e due, per sapere come sono andate le cose. Ti sto dicendo che mi faccio giustizia da solo. Se mi morsicano il cane, io biglio il cane per abbrindui. Sì, ma il cane non è a colpa, è un padrone che è a colpa, perché se il padrone lo gestisce bene il cane va per istinto, è il padrone che ha la colpa. Quando vedi che ne ammazzi uno o due di cigani, e quando ti vedi già mani carriera, di lui di ghio. Passa la mia voce in giro. Però non è a colpa. Natali, non mi sono accorto che erano le 7, là devo andare a portare a peso e poi devo andare là. Dai, ci sentiamo. Ma lo è, l'hai visto quella roba? L'hai vista? Scappa. Vabbè, io adesso sto andando, vai, e devo portare giù il cane. Ci sentiamo, ciao Emanuele, ciao Appalino. Ci sentiamo alle prossime, dai. E ciao ciao a tutti e due, dai. Anch'io adesso mi faccio qualcosa da mangiare e ceno, perché io devo domani devo andare pure a farmi l'esame di Rusango. Ci sentiamo alle prossime, dai. Attenzione, Mario 10, c'è avanti. Hola. Hola. Attenzione, binario 10, cambio. Hola, attenzione, binario 10. Hola, cipo 10. Hola, attenzione 10. Attenzione, sul 10 c'è qualcuno. Hola. Is that it? Yeah, I hear you. Sounds pretty good. No background. Yet, yeah. Not yet. Well, to be ready to that, raise it. Time away from squealing before I can come do it that. I'm up there. I raise it up another tad. No, man, not at all. Sounds good. Where's the tone at? I usually put that about halfway up or less. In the mobile, you used to keep it wide open. It sounds pretty good, no background yet. Loco, my mere dad said that. It sounds good, man. No pain, no strain. You could probably maybe crank it even more. Yeah, right there is almost starting to squeal a little bit. Okay, 45. Do you have anything that just squeals? Click, click, check, check. Testing 1-2. There's a picture of Wolf on JD's page. Somebody said some daddy Wolf or something. Let me see what he says here. The daddy Wolf in the time file. And 007 from New Jersey. I guess they maybe want to go to see Wolf. Something like that. That's Wolf, all right. It's on that web page, that one that I gave you. You know, the Watergate. He's got a big clientele, man. He's got a lot of clients. That guy, that 222 guy up in Illinois. Italia chiama, prego, prego. That looks like his 1020 though, the inside of his shop, where they took the picture. Let me see. I'm trying to focus in to see if that's him. Hang on a second.